Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Ci sono soltanto alcune considerazioni, io direi, da trarre dal mio modesto punto di vista. Sicuramente i nomi di questi tecnocrati sono di altissimo bordo, hanno dato, insomma, hanno un curriculum di tutto riguardo, di tutto rispetto. Resto basito sul fatto che in Italia queste cose accadano, insomma, un po' troppo spesso. L'età giusta, credo, per ricordare, vado giù a memoria, vado a braccio, per ricordare quanti governi, e quasi tutti, non sono mai riusciti in Italia ad arrivare alla conclusione del proprio mandato. Molti si sono portati in piazza davanti al Parlamento per assistere alla uscita di scena politica, naturalmente, del Premier Berlusconi, con i suoi se e con i suoi ma, con i suoi torti e le sue ragioni. Hanno, come dire, si sono dati un po' alle pazze gioie, bottiglie di spumante, si è stappato, si è cantato l'Internazionale, beh, tutto quanto nella norma comunque democratica. È lecito protestare, è lecito avere delle posizioni diverse rispetto a quelle, insomma, che c'erano in quel momento come posizione politica, intendo, erano al governo. Però sicuramente non è che stappando poi le bottiglie di spumante e andando via Berlusconi i problemi del nostro paese sono subito risolvibili, tutt'altro, insomma. La BCE la dice lunga. Ieri sera, andando sul computer su YouTube, ho assistito a una tranche della trasmissione di Canale 5 Matrix, dove un giornalista, un opinionista di grossa levatura ha detto delle cose, a mio modo di vedere, molto pesanti e molto gravi. Si parla addirittura, si paventa, ecco, non ci sono dati storici, oltretutto non ci sono delle prove confutabili o inconfutabili per le quali si possa accusare il nuovo presidente della Banca Europea, la BCE, appunto Draghi, il quale, a detta di questo giornalista, non ha mosso un dito per dare una mano all'Italia, definendo il tutto questo non voler dare aiuto, questo non voler prestare la spalla, no, al nostro governo e alla nostra nazione da parte di questo burocrate dell'alta finanza, che parliamo sempre di Draghi, ex governatore della Banca d'Italia. Secondo questo giornalista, dicevo, lo ha intacciato addirittura di alto tradimento. Un dato di fatto certo c'è, il dato di fatto è che in Italia non ha mai comandato la politica dei nostri uomini, né di centro né di sinistra, né l'ex DC né il PC, ma hanno comandato Unione Sovietica, Stati Uniti. Oggi nella politica italiana c'è un'infiltrazione conclamata da parte dell'asse franco-tedesco, quindi Sarkozy e la Merkel, e sicuramente non c'è da stare felici, perché, insomma, abbiamo ricevuto velatissima minaccia: se non vi adeguate a queste regole che noi vi diamo, guardate che siete fuori, insomma, ci saranno dei grossi problemi nel vostro Stato. Non ho altro da aggiungere, commento soltanto quel che vedo, non esprimo giudizi né verso la Merkel né verso Sarkozy. Sicuramente farebbero bene questi due governanti a guardarsi un po' dentro i loro paesi, soprattutto la Germania sia la locomotiva dell'Europa, perché ha maggior PIL, perché i suoi bond sono quotati meglio rispetto ai nostri, che poverini ormai, poi i bond ve la farò spiegare più tardi da un tecnico della finanza locale cosa sono i titoli di Stato, in poche parole, se non erro. È chiaro che la Germania è come dire, il fiore all'occhiello dell'Europa, è lo stato symbol dello star bene, o quasi, o è messo meno peggio rispetto a tutti gli altri governi europei. Sicuramente da italiano non mi fa piacere che personaggi che attengono alla politica internazionale vadano ad occuparsi di politica interna nostra. hanno ragione gli europei nell'additarci come persone un po' sprovvedute, un po' pressappochiste, no? E l'abbiamo fatto per 150 anni essere pressappochisti, salvo poi renderci conto che quando siamo davanti al baratro vedi Brigate Rosse, vedi mafia, vedi adesso l'economia che ha fatto di tutto per catapultare fuori dalla presidenza del Consiglio Silvio Berlusconi, perché quello è un golpe bianco senza carri armati, senza militare per strada, ma tramite l'economia sono riusciti a sconfiggere il nemico numero uno dell'Italia, che era appunto il cavalier Silvio Berlusconi. E questo cavalier a me fa pensare un altro cavaliere che si chiamava Benito Mussolini, che tutti osannavano, che tutti applaudivano, ed è anche Berlusconi è stato votato a maggioranza, insomma 300 e passa deputati senatori non era da molti anni che si vedevano seduti negli scranni delle due camere, l'alta e la bassa, quindi deputati e senatori del nostro Parlamento. E questo cavaliere insomma è deleterio, sì, è stato deleterio per Mussolini, è stato deleterio per Berlusconi. Sicuramente entrambi hanno avuto grossissimi torti, ma spiegavo l'altra sera, ho scritto su Facebook che Mussolini fu spinto dall'asse franco-inglese nelle braccia dei tedeschi e poi ha combinato il disastro che ha combinato con la Grande Guerra Mondiale. E questo, in questo caso invece le forze occulte, chiamatele illuministi o gli illuminati, chiamatele come vi pare, fatto sta che dove la magistratura ha fallito, dove la politica di opposizione al governo nazionale ha fallito, beh, ce l'ha fatta l'economia mettendo sul lastrico l'Italia e costringendo il governo attuale, nella persona anche del Presidente del Consiglio, a dare le giuste dimissioni. Fatta questa disamina, no, questo per far capire a chi ci ascolta che non è che gli italiani sono degli sprovveduti, che non sanno leggere i giornali, non sanno guardare le televisioni o non sanno, peggio ancora, ragionare col proprio cervello. Io ragiono col mio di cervello e riconosco che con tutti i torti che Berlusconi ha, con tutte le defianze che Berlusconi ha commesso, con tutti i bunga bunga che lui abbia fatto, e questo non sta bene nel momento nel quale in Italia, intanto do il benvenuto a un mio carissimo amico, un personaggio di levatura nazionale, è stato accalcato la scena di Canale 5, adesso vi spiego di chi vi sto parlando, volevo concludere il concetto, dicevo sicuramente ha delle grossissime responsabilità, certamente il governo di centrodestra in questi anni non ha posto in essere il programma, o quantomeno parzialmente non ha posto in essere il programma a cui si era ispirato e che aveva sottoscritto con gli elettori, ma è altrettanto vero che queste forze occulte che io chiamo illuminati, però poi chi non capisce questa cosa non mi posso mettere qui a spiegarvela, ma se andate su internet cliccate illuminati, vedete un attimo cosa vi esce fuori. È un potere occulto che gestisce le sorti dei vari governi internazionali, dando il nuovo ordine mondiale, per così dire. E allora, secondo me, non è che Berlusconi fosse così stupido da non rendersi conto che non mettendo in opera o non ponendo in essere quello che aveva scritto e sottoscritto con gli elettori italiani del programma, non si sia reso conto che non facendo questo sarebbe andato incontro al disastro, e questo poi è successo. Per cui non penso che Berlusconi sia stato stupido, non penso che Angelino Alfano sia uno sprovveduto, così come anche Gianni Letta e tanti altri, sono delle persone che secondo me hanno una loro intelligenza, però il fatto sta che forse questi poteri occulti o le lobby che ci sono in Italia, perché negli altri stati grazie a Dio le riforme si fanno, non ci sono veti da parte di verdi, di bianchi, di rossi, di celesti, si fanno le TAV, si fanno i doppi binari, si fanno gli aeroporti, si costruiscono le strutture e le infrastrutture che per un paese democratico, ed è la quinta o la nona potenza del mondo, necessitano. Quindi con tutti questi veti, se tocchi questo non ti diamo i voti là, se tocchi quell'altro non ti votano là, quindi il tutto si muove intorno ai voti. Quindi secondo me non è stato possibile al governo di centrodestra in questo momento, e neanche a quello di centrosinistra quando fu in carica, tant'è che cadde anche quello, queste lobby non hanno consentito all'attuale governo, quello dimissionario, di porre in essere quello che era il proprio programma, quindi non per scolpare di quelle che poi sono le colpe intrinseche del legislatore, ma esclusivamente perché in Italia se tocchi qualche lobby insomma succede il finimondo. Vediamo adesso questo governo Monti, queste persone che oscillano tra i 65 e i 75 anni, grandi tecnici, grandi uomini che hanno dato lustro all'Italia e nel resto del mondo, tra questi appunto il dottor Monti, che è stimato soprattutto, e sottolineo soprattutto, negli Stati Uniti. Vediamo cosa saranno capaci di fare, dove la politica si è resa e alzata le mani, e ripeto, per me è sempre un golpe bianco, senza carri armati, ma di golpe si tratta, riusciranno per nostra fortuna dove gli altri in questi 150 anni hanno sempre fallito, cioè la politica. Detto questo, do il benvenuto a Gianfilippo, Gianfilippo non dico il cognome perché sei famoso, insomma, Gianfilippo Grande Fratello, prego. È questo qua allora il microfono? Sì, sì, quello è il microfono. Ospite qui in studio da noi, reduce da Roma. Sì, vivo adesso a Roma, ormai sono in pianta stabile a Roma, ecco. Grazie mille dell'invito, e poi lo dovevo a CRM che mi ha aiutato tantissimo quando ero lì. È noblesse oblige, cioè Gianfilippo è un ragazzo semplice, un ragazzo di un'umiltà straordinaria, è amico sincero di chi dimostra amicizia e affetto, e poi ha una famiglia alle spalle che è straordinaria, una mamma dolcissima, stupenda, un papà meraviglioso, per cui lui non può essere diverso da tutto ciò. Non sarò uguale a loro, però... Il DNA è quello lì. Senti Gianfilippo, cominciamo con una domanda semplice, si fa per dire. Io ho avuto il piacere di fare la selezione del primo Grande Fratello e avere avuto sotto le mie grinfie come manager un tuo collega della grande casa, no? Che era Salvo Veneziano, personaggio eclettico, un po' fuori dalle righe, un po' sopra le righe anzi, che adesso ha aperto un bel ristorante, mi dicevano, a Milano. Sì, ma ne ha più di una, più soprattutto pizzerie, cioè più lui viene dal mondo della pizza, quindi... La domanda che ti pongo è questa, dall'esperienza che tu hai avuto dal tuo punto di vista dentro la casa del Grande Fratello, secondo te è ancora attuale questa trasmissione, la chiamo così, non è una trasmissione, è un format tirato fuori dagli Stati Uniti e poi mandato in Italia sotto cambiando qualche cosa, la Endemol, insomma, John Endemol dall'Olanda, se mi sbaglio, ha creato questa società. Sicuramente sono cambiate molte, il vero Grande Fratello è il primo, quello che hai seguito tu, e quello su cui tu hai fatto provini e controprovini e poi hai seguito giustamente Salvo, quello è il vero Grande Fratello, il più reale di tutti. Poi chiaramente il Grande Fratello si è evoluto perché la televisione richiedeva determinate cose. Beh, lo share, no? Il famoso share che quindi adesso sta prendendo delle batoste enormi, anche Fiorello gli ha dato un KO questo lunedì al Grande Fratello. Non è che sia andato molto bene anche Fiorello, secondo il mio modesto punto di vista. Non lo so, io ho letto così un attimino le notizie su internet, così mi sono documentato, perché non è che segua più tutte queste cose, ho altri pensieri adesso. Adesso ci arriviamo, non mi adesso ci arriviamo, nulla. Sì, parleremo un po' di tutto. Comunque sì, il Grande Fratello è cambiato, ma è cambiato molto, notato in maniera radicale dopo la mia edizione, hanno forse capito che c'erano altre cose da dover fare, ecco. Quindi allora, concludi il concetto, perché quindi dobbiamo dare un attimo la linea, mi tirano le orecchie al regista, vedi, da Olbova in miniatura, vedi, l'hai visto? È un bellissimo ragazzo. Vedi che non ho torto io. Allora, facciamo un applausino. Ma sì, ecco. Facciamo l'applausino al nostro tecnico. Nostro Raul. Allora, Gianfilippo. Sì, in pratica dicevo questo, sono cambiate molte cose, ma perché è cambiato proprio il modo di vedere la televisione. Sicuramente si ritornerà un po' indietro, perché comunque questa televisione adesso scontenta molto il pubblico e poi è molto diseducativa, ecco, questo lo... Poco educativa, perché gli ultimi Grandi Fratelli hanno lasciato un po' troppa bestemmia dentro, si fanno delle cose un po' blasfeme che non stanno bene, soprattutto al pubblico che ci segue da casa. Ti fermo un secondo, do la linea al nostro regista, sì, poi mettiamo un bel brano musicale, mi raccomando, e rientriamo con Gianfilippo. Allez. I get the shivers, I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life.

primi e secondi piatti veloci, da consumare sul posto o da asporto, insalate fresche e fantasiose, e le specialità, panini, piadine, kebab e piatto kebab, panini con hamburger e con porchetta, e il gelato soft. Da Stuzzico, menù fisso a base di carne, 12 euro, di pesce, 15 euro. Stuzzico è anche rosticceria Mignon, catering. Stuzzico è ideale per festeggiare compleanni e ricorrenze particolari. Stuzzico, fast food pizzeria, anche servizio a domicilio. Via Roma 39, telefono 0921 42 35 42 Cefalù. Per la tua pubblicità su CRM, telefono allo 0921 423 456. Bene, rieccoci un'altra volta rigorosamente in diretta con Carta e Penne, studio Filippo Glorioso, in compagnia di un personaggio, insomma, voglio dire, un bel ragazzo intanto, no, non ho cambiato sponda. Grazie del personaggio, ma quale personaggio? No, lo sei stato per un bel po' di tempo, devo dire, ha ragione, lui ha fatto parte del Grande Fratello. Che edizione era? La 8, l'ottava edizione. Senti, tu hai toccato un tastino poco fa che mi ha fatto un attimo il solletico su un pensiero che io avevo in mente da molto tempo, cioè la scarsa educazione che ormai non passa più in televisione. Gli ultimi Grandi Fratelli, qualche bestemmina, un po' di sesso, insomma, è diventata una vetrina di esposizione sessuale e di essere blasfemi per molti aspetti, cosa che non dovrebbe succedere in un mezzo pubblico, anche se privata come società. Come detto. Prego, il tuo parere. No, io dico proprio, a parte che la mia edizione, la 8, è stata penso una delle più sfigate di tutti, perché nessuno di noi è riuscito, a parte Raffaella Fico che è riuscita a essere una grande subrete, la vediamo spesso, ha fatto altri reality e tutto, la nostra edizione è stata la più sfigata, ma probabilmente anche per questo motivo qua, perché abbiamo fatto parlare poco di noi, quindi noi non abbiamo assolutamente... cioè non abbiamo fatto tutti questi teatrini, tutte queste liti, ce ne sono state, però eravamo molto più pudici, avevamo un senso del rispetto, io per primo nei confronti della famiglia mia che mi stava guardando, è chiaro, è molto facile, ma anche dei concittadini, al di là dei concittadini, ma le mie nipotine che mi seguivano, quindi non potevo essere diseducativo nei loro confronti, perché tengo molto a loro, quindi bambini, perché comunque Castelbuono, comunque le Madonie, comunque hanno seguito comunque un loro compaesano, certo, che stava lì, quindi c'era dai bambini, siciliani, sì, voglio dire, dai bambini a chiunque comunque seguiva, quindi comunque avevo questo speso sulle spade di Damocle, sì, piantata proprio, quindi è chiaro, molti mi dicevano guarda che guarda che non devi assolutamente, cioè dovevi, mi sono un attimo confuso, quando vedo tanta gente mi confondo. No, adesso vi presentiamo, oggi è una giornata, scusa se ti interrompo, sì, è una giornata particolare, perché pensa spesso e volentieri la gente ha delle banche un concetto distorto, no? E allora chi invece ha un concetto corretto, saltiamo un attimo di palo in frasca perché diamo così il benvenuto al dottor Augusto Cesare, Cesare Augusto lo potevi anche chiamare così, insomma non cambia nulla, invece il signore Cesare Augusto, lei? Maurizio Roccia. Maurizio Roccia? Sorcia. Ecco, sono due dirigenti dell'Unicredit di Cefalù. Perché li abbiamo invitati? Ma è molto semplice, perché pensate, festeggiano 100 anni, no? Dico bene? Tra poco parliamo anche con voi, intanto vi saluto, vi do il benvenuto in redazione, tanto state comodi, seduti tranquillamente, gradite qualcosa, perché qui abbiamo anche il bar, abbiamo tutto, qualcuno che ci ascolta dice, ma scusi, quando io faccio qualche defiance, ecco c'è il bar, magari sarà mezzo, beh, uno sono astemio. Allora, ancora due secondi con te, poi resti, perché sì, intercaleremo, parliamo un attimo con loro, perché magari hanno necessità di rientrare in ufficio e diamo spazio, quindi ecco, vedi che lui dà l'assenso, anche perché se gli chiede poi un prestito dice no, lei mi ha fatto attendere, adesso attenda fuori, scusate. Dunque, tornando a parlare un attimo dell'essere blasfemi in televisione, soprattutto per quanto attiene il Grande Fratello, questo format fatto da Endemol, che è la casa che poi gestisce la messa in onda tramite canale 5 del Grande Fratello, stavi asserendo che la tua le vostre puntate furono un po' diverse, un po' sfigate, sì, rispetto, no? Sì, noi siamo stati veramente, noi ti dico, eravamo poi la sera quando le telecamere, perché a un certo punto le telecamere si fermavano, mi ero accorto, perché io sono un nottamolo, a me piace stare sveglio la notte, sarà il nome, ecco, quindi vedevo che le telecamere stavano ferme, quindi mi muovevo di conseguenza e non mi seguivano più. Quindi quello che c'era da fare in realtà si poteva fare benissimo anche senza essere sotto l'occhio della telecamera. Due domande te li sparo molto dirette. La prima è questa. Io ho vissuto all'interno delle telecamere della RAI, quindi corridoi, dietro le quinte, eccetera. Ma chi ci vede dall'esterno immagina che sia un mondo tutto dorato, tutto di stelline, tutto di persone per bene, tutto con tacche e punte. In realtà tu mi insegni che così non è, perché poi ci sono delle contrapposizioni, ci sono delle gelosie, soprattutto tra donne, no? Di capelli, sputi e quant'altro. Ma hanno rovinato le donne. Non lo dire a me, parliamo bene. Ho perso tutti i capelli per le donne. Siamo in due, però voglio dire, non parliamo male delle donne, sennò qui ci picchiano. No. Allora, senti, in realtà invece, qual è secondo te la differenza tra far televisione di quel tipo di format televisivo, cioè far vedere agli altri quello che in realtà, mascherandolo poi, perché lì non si è veri, non si è, tanti Talicone credo che riusciva bene, Salvo Veneziano. Secondo me non si è veri mai, perché comunque il tuo subconscio sa che le telecamere ti seguono in qualsiasi momento, vai in bagno, quindi sei più elegante. Sì, si recita sempre. Sempre, dal primo giorno all'ultimo giorno ti posso dire che il mio subconscio sapeva che le telecamere mi seguissero. Poi, una volta uscito, logicamente mi sono lasciato andare, ecco, quindi... è così, è normale, ecco, come cosa. Mi dice la... Sì, ma io non sono abituato come voi. Ma ecco, dai! Voi siete professionisti. Allora, un'altra domanda, poi ti lascio in compagnia di questa bellissima ragazza che è una nostra amica e mi viene sempre a trovare, perché anche lei è una ballerina. Ha vissuto a Milano, ha studiato danza, eccetera, eccetera. No, qui ci contorniamo di cultura, sia di cultura per quanto attiene l'economia. Adesso vedi, abbiamo dei rappresentanti. Te, perché fai l'avvocato adesso, non fai più il personaggio. No, non faccio l'avvocato. Cioè... Ah no, sei laureato in giurisprudenza, sottodottorato in giurisprudenza, sì. Però... Di sicurezza nei luoghi di lavoro, le 626? Exo 626 non esiste più, la 626, 8108, ecco. Parleremo di questo tra poco, ma diamo spazio invece adesso al dottor Cesare Augusto, ma pensate un po', ragazzi, un imperatore alla corte di CRM. Dove io cedo il trono. Siamo un po' goliardici, le chiedo scusa, adesso diventeremo invece una certa blonde anglosassone. Mettiamo, prima del brano io devo dare lettura, abbiamo fatto la pubblicità istituzionale adesso. Ti ringrazio Gianfilippo, non andare via, resta qui con noi perché poi... Qua, rimango. Perfetto, intanto invito il dottor Augusto Cesare a prendere possesso di una poltrona, sarà un pochino scomoda questa poltrona. Dottor Cesare, la sia propingui, la prego. Intanto io desideravo ringraziare e salutare la trattoria, il ristorante La Lanterna Castelbuono, gastronomia tipica, ne ve la consiglio perché di questi tempi mangiare genuino non è semplice. Se invece andate alla Lanterna di Castelbuono, troverete tutti quei cibi che hanno ancora il sapore di un tempo, perché sono squisitamente raccolti negli orti delle Madonie, quindi senza anticrittogamici, senza inficimenti di nessuna cosa. Come natura crea, La Lanterna cucina, non posso dire che io conserva perché direi una pubblicità. Allora, vi suggerisco alcuni piatti, la pasta fresca casareccia, olio d'oliva, prodotti dell'orto locali. Poi i funghi, ragazzi, i funghi, questo è il periodo dei funghi, funghi stagionali di bosco raccolti nelle Madonie. Andate a Castelbuono, andate a pranzare o cenare alla Lanterna e naturalmente buon appetito. Un altro posto dove vi consiglio di andare se volete mangiare il pesce veramente fresco è una new entry, nel senso che è stato inaugurato da pochi giorni, il ristorante Sapori di Mare a Termini Imerese. Vi do subito l'indirizzo dei miei Cristoforo Colombo 8 bis, il telefono, perché fanno anche catering, vi cucinano i piatti, i primi, i secondi, i sughetti, quello che la vostra moglie o la vostra fidanzata vi vuole portare a tavola a pranzo. Non è il caso che la oberate nel metterla in cucina, passate da questo ristorante, c'è uno chef straordinario, i prodotti sono meravigliosamente naturali, soprattutto il pesce è freschissimo, e quindi telefonate allo 091 81 11 447, fate le vostre prenotazioni, andate a cena o a pranzo e mangerete veramente del pesce straordinario. Poi se volete fare anche degli acquisti potete acquistare frutti di mare, ricci, crostacei, cotti e crudi e pesce fresco. Ristorante Sapori di Mare a Termini Imerese. Volevo dare un'ultima lettura, poi diamo spazio al brano musicale e rientriamo con il dottor Augusto Cesare. Di questi tempi non è facile parlare di costruire una casa, perché insomma l'economia è quella che è, la gente che ha qualche quattrino lo mette in banca o lo mette sotto il famoso materasso, dottore? Però sai, ogni tanto spendere qualche migliaio di euro proprio per godere la pupilla degli occhi, dove li spendiamo? Nella casa. Gli italiani siamo amanti di possedere una casa. Per ristrutturarla, per renderla più bella internamente, esternamente, ma anche il vostro giardino, per arredarlo con gusto, magari uno ama l'arte classica, perché no? Allora cosa fa? Semplicemente va da Nuova Edilizia Siciliana a Campo Felice di Trocella, chiavi in mano vi consegnano il restauro fatto, chiaramente a vostro piacimento, con i vostri architetti, lui fa soltanto la posta in opera e ve la consegna chiavi in mano. Poi se avete un giardino e volete arredare con dei pezzi veramente straordinari di alta fattura, lui con la polvere di marmo, cioè Nuova Edilizia Siciliana con la polvere di marmo, vi realizza le panche, le colonne anche con i capitelli corinzi, romani, fate come vi pare, portategli il progetto, ditegli cosa volete realizzato e Nuova Edilizia Siciliana a Campo Felice di Trocella, visitate lo showroom, ve lo ricordo, si trova in via della provincia 15 a Campo Felice di Trocella, vi renderete conto di quello che io vi sto dicendo. Poi se ci andate a nome di Filippo Glorioso, insomma, un souvenir, un regalo, un omaggio, sicuramente Nuova Edilizia Siciliana ve lo fa. Non dimenticate questo nome perché la dice lunga sull'arredo casa, ma soprattutto anche sulla ristrutturazione di casa vostra. Grazie, linea d'energia, breve pausa musicale, rientriamo tra poco, parleremo di economia, ma parleremo di questi 100 anni che la banca Unicredit ha posto in essere fino ad oggi con tanto successo. Linea d'energia. Dentro il mare, dentro il pane, nella bocca e negli occhi, far l'amore nelle mani, e nei baci e nei cuori fiori a far così. Oh, yeah. sapere di più. E allora rieccoci in diretta, oggi cambieremo molti argomenti, ben vengano questi argomenti perché comunque abbiamo così idea su cosa succede intorno a noi. Abbiamo fatto il cappelletto inizio introducendo il discorso del nuovo governo, abbiamo parlato di questi poteri occulti che insomma la dicono lunga sui bello e cattivo tempo dei vari governi internazionali, il nuovo ordine mondiale da parte degli illuminati, poi insomma ognuno di voi può fare le ricerche che ritiene più opportuno fare. Io mi sono documentato e ritengo, non a torto ma a ragione, che i governi si fanno cadere non più con i carri armati, non più con l'esercito, almeno nell'Occidente, ma si fanno cadere con le borse e quant'altro. Le borse non quelle delle nostre mogli, delle nostre signore, ma le borse dove vengono quotate poi, vengono quotati i titoli di aziende, di banche, eccetera, eccetera. Torniamo un attimo sulla realtà cefaludese e dell'Interland con questi 100 anni di Unicredit a rappresentare e a dirci di che cosa stiamo parlando. È venuta a trovarci una persona che ne ha competenza, perché è direttore della filiale di Cefalù. Dice direttore, ho detto bene? Ora adesso quando intervengo il dottor Augusto Cesare. Allora parliamo di questo evento, dottor Cesare, di che si tratta? Intanto si tratta di un traguardo credo auspicato da tutti, a noi uomini nella vita raggiungere 100 anni. Immagini nel commercio cosa vuol dire avere una filiale che ha 100 anni di vita, è importantissimo. Io ricordo, non i 100 anni fa perché non ho 100 anni, non c'eravamo, però ricordo che il Banco di Sicilia, allora, oggi, Unicredit, era il secondo, o in exeguo con il Banco di Napoli, i due istituti di diritto pubblico in Italia. Quindi immagino 100 anni fa, per chi conosce Cefalù, laddove i limiti, il perimetro della città, ad esempio a Porta Terra dove siamo noi, Piazza Garibaldi, per chi non conosce questo termine, era diciamo la soglia della città, cioè quindi era il perimetro diciamo dove. Oggi, allora il Banco di Sicilia insieme al Banco di Napoli erano le uniche banche titolate a fare il credito, immagine, a medio e lungo termine, no? Esiste il breve, sì. Esiste quello a medio e lungo termine, quindi minerario, agrario, peschereccio. Oggi ci onoriamo di appartenere ad un grande gruppo che ha una valenza mondiale, che si chiama Unicredit. Da allora ad oggi è passato tanto tempo, raggiungere questo traguardo ed essere cresciuto, ed essere rimasta la banca di riferimento per la città di Cefalù è qualcosa che sbalordisce chi è nel mondo del credito, ma allo stesso tempo si capisce che chi si è succeduto nel tempo è riuscito a mantenere un rapporto di fiducia con la gente. E questo è importante, avere fiducia sul proprio direttore o sui propri dipendenti della banca dove io ho il mio conto corrente, vuol dire fidarmi di persone che sono competenti in quello che fanno e non distorcono, cose che a volte sono anche successe, no? Non c'è un dubbio. Sono anche successe. In realtà, Cefalù, grazie a Dio, siamo salvi da questo punto di vista, abbiamo raggiunto questi benedetti 100 anni, fatti bene. Domani è opportuno passare la comunicazione a chi ci ascolta. Domani alle 16:30 in Piazza Garibaldi, chiaramente a Porta Terra per i cefaludesi, si festeggeranno i primi 100 anni alla presenza del management della banca, ma anche delle istituzioni locali e principalmente quello che è il nostro patrimonio, i clienti, che vorremmo soddisfare sempre le loro esigenze. È un momento difficile, ma noi ci tentiamo. Io ricordo solamente una cosa. Prego. Poi non lei può parlare a ruota libera, è un ringraziamento che faccio io oggi che sono capodistretto di Cefalù, e spiego cosa vuol dire distretto in modo da presentare il collega Sorce che è qui con me, che salutiamo Maurizio Sorce, che viene dalla filiale di Castelbuono di Unicredit. Il distretto è un progetto che la banca ha voluto per avvicinare la banca al territorio, quindi alle esigenze dei portatori di interessi legittimi, le imprese e le famiglie. È composto da 8 filiali: Cefalù, Castelbuono, Collesano, Petralia, Gangi, Bonpietro e basta, non credo di non dimenticarne nessuna. A capo di questo distretto, quindi della crescita della banca e quindi del parco cliente, delle esigenze dei clienti, mi onoro di esserci io, bontà della banca che mi ha voluto nominare capo distretto, e invece a capo della filiale 1 di Cefalù, dove domani ci saranno i festeggiamenti dei 100 anni, c'è il collega Maurizio Sorce che è qui accanto a me, che proviene dalla filiale di Castelbuono. Anche. Io volevo chiedere se era possibile, dottor Sorce, si può propinguare, la ringrazio. Ringrazio anche il dottor Cesare, poi fuori onda ci scambiamo un attimo i numeri, perché nel futuro è chiaro che con questa situazione che si è venuta a creare, sperando che un economista della fama di Monti riesca a dare un po' di respiro ai nostri titoli obbligazionari, che in questo momento stanno subendo attacchi indiscriminati, e con i bond tedeschi. Abbiamo, no, appunto, è una guerra di interessi in maniera cosmopolita, però nel particolare va a colpire quello che è il nostro Stato, no? Che non è così poi forte per come si possa pensare. Abbiamo delle peculiarità che evidentemente ecco, ci saranno i cinesi. Dottor Sorge, allora, lei da quanto tempo occupa la sua posizione di dirigenza alla filiale di Cefalù? Io sono a Cefalù da 2 giorni. Ah, new entry, new entry. Proviene da Castelbuono. Da Castelbuono, sì, mi sono trovato molto bene. E anche qua mi trovo bene, mi troverò bene, sì. Senta, voi avete mandato una lettera, devo dire è una cosa carina che avete fatto, perché non sempre verso le banche, come dicevo all'inizio del discorrere con voi, non sempre le banche erano viste come delle lobby vere e proprie, cioè usurpatrici. Non siete fate bene, fratelli, questo è normale, cioè la banca c'è un do ut des, tu compri il vestito, lo paghi, si contatta, mi togli il 10, mi togli il 4, però poi bisogna pagare, quello è. Però la cosa che io ho molto apprezzato da parte di Unicredit in generale, quindi dei vostri diretti superiori, ma poi nel particolare, perché nel dettaglio, nel territorio, siete voi che fate la banca, non è la dirigenza generale, se vogliamo, no? La lettera di invito che avete mandato anche a molti dei vostri clienti, che recita, faccio un sunto: l'impegno che come Unicredit assumiamo in materia di sostenibilità è parte integrante del nostro modo di operare, un impegno finalizzato alla creazione di valore per i nostri Questa è una frase, una parola in inglese, io non so. Portatore di interesse. Oh, che in inglese è scritto stakeholder. Stakeholder, attraverso il quale mettiamo a disposizione il nostro contributo per promuovere e supportare il progetto economico e sociale di cui oggi c'è molto bisogno. Quindi, lungimirante da questo punto di vista. Poi mi piace la parte finale, dove dice: il raggiungimento del centennale, l'apertura della nostra agenzia e di altre 28 filiali Unicredit sul territorio italiano, è perciò un'occasione importante per riflettere sul cammino fatto insieme e sulle sfide e opportunità che ci riserverà il futuro. E che sfide, ragazzi, sfide molto grosse. Per questo motivo conclude poi la lettera: saremo felici di invitarla a celebrare insieme a noi. Questo è molto bello. Secondo me, io ho sempre sostenuto, perché sono amico anche di presidenti di banche più piccole rispetto alle vostre, per ovvie opportunità, non dico i nomi perché sennò farei pubblicità, ho sempre detto, e ho avuto riscontro in questo, nel dire che la banca deve essere congegnata in modo tale che sia non per il cliente, cioè non siamo, ripeto, benefattori, però che sia più a contatto con il cliente, un po' come la politica che si è messa un po' in disparte lasciando la gente allo sbaraglio. La politica deve stare vicino alla gente, così anche la banca deve stare vicino alla gente, perché se cresce la gente cresce la banca e viceversa. Se questo connubio non si crea, si creano delle disincresie al posto tale che la banca arriva a chiudere perché poi il cliente non c'è più, quindi distrugge il cliente, non è nell'interesse della banca, e la banca non ha nessun interesse a sfruttare il cliente, perché poi perdendolo. Perfetto. E noi facciamo proprio questo, cerchiamo di essere molto vicini ai clienti, soprattutto in questo momento di crisi economica, in modo che sia meno traumatizzante e meno duro questo un momento. Un po' di rassicurità, sì, esatto, da parte vostra. Questo di rassicurare parlando, perché le persone hanno molta ansia, molta paura, quindi il nostro compito principale è quello di rassicurarli e renderli, diciamo, più umani, più umani, poi, appunto, sì. Cioè la setticità in un rapporto bipartisan, certo, non serve la freddezza, no, non serve a nulla, appunto, sì. Prego, puoi intervenire, dottore. Solo una parola. Prego. Proprio per venirle incontro in quelle che sono state le sue riflessioni. Ad esempio, questa banca, che a differenza di altri grandi istituti presenti nel territorio, nel nostro paese, Italia intendo, ha previsto circa un anno fa e lo ha rinnovato oggi, consacrando e riconoscendo questi distretti, per spostare i poteri decisionali a monte a valle. Ciò cosa vuol dire in sintesi? Che se viene un imprenditore e ha bisogno di un certo tipo di assistenza. Dopo le valutazioni di merito creditizio, certo, che sono garanti anche delle famiglie che depositano il risparmio, normale, se no, perché se no salterebbe, vediamo tutti a uno e gli altri poi tutto il sistema, certo. Dopo quindi quelle valutazioni, possibilmente la decisione rimane nella persona con cui l'imprenditore ha parlato, non è a monte, cioè quindi in funzione, certo, tutto è limitato a determinati importi e quindi a determinati rischi. Beh, che il territorio, delle regole che vanno seguite, perché più aumenta il rischio, più aumentano gli importi, più la funzione deve essere competente nel poter deliberare. Quindi l'obiettivo della banca è avvicinare, ma non con le parole, ma con i fatti, ecco la nascita dei distretti, la banca al cliente, perché bravo, insieme cresciamo, perché se cresce la banca è perché c'è il cliente che ci chiede o sul fronte della raccolta o sul fronte degli impieghi dei servizi dell'assistenza. Certo, non stiamo attraversando un buon momento, ma è come una fabbrica: se non c'è il capitale investito, quindi il titolare dell'azienda che pone in essere col proprio denaro i macchinari per far lavorare, non si va da nessuna parte, ma parimenti non si va da nessuna parte se l'impiegato, se l'operaio non rende in fabbrica. Ci deve essere questo do ut des, cioè questa... un circolo, cioè, ecco, tutto nasce dal risparmio del cliente, noi lo chiamiamo cliente, ma è della famiglia il risparmio. Da lì poi nascono gli imprenditori che con i mezzi propri e con i mezzi che le famiglie depositano nel risparmio delle banche, riesce a poter, mezzi propri e mezzi terzi, riesce a poter, ecco, è un circolo virtuoso che noi dobbiamo sostenere. Ed è importante essere sul territorio ed essere a contatto diretto con i bisogni dell'uno o dell'altro, solo così possiamo crescere. Dottor Cesare, io la ringrazio, se non vuole aggiungere altro, e neanche il dottor Sorce, se volete aggiungere altro, il microfono è ancora aperto. E adesso fuori onda io do la pubblicità, ci scambiamo un attimo i numeri di telefono, perché mi farebbe piacere nel futuro prossimo potervi ricontattare e avere l'opportunità di parlare di cose un po' più addentrate nello specifico della crisi economica, e di chiedervi chiaramente quello che è l'andazzo generale, che oggi non possiamo fare per motivi di tempo, ma lo affronteremo successivamente con la vostra cortesia, come per far capire al pensionato, alla persona anziana che vive un momento di pathos, di paura, le capisce che se andiamo a togliere un po' di soldini al pensionato che vive con 500-600 euro, che ha un piccolo gruzzoletto in banca, con quello che si sente in televisione, mo dice che fa, me frega nei sordi. Ecco, allora, bisogna come dire, appianare un po' queste questioni, spiegare alla gente con termini non certamente tecnici, perché sennò non capirebbero, ma far capire insomma qual è la reale situazione e come pian piano si può risolvere senza mettere in allarme nessuno e niente. Intanto ringrazio il dottor Cesare Augusto e il direttore Maurizio Sorce, che ho avuto già il piacere di conoscere a Castelbuono, e quindi rinnoviamo questa nostra amicizia. Mi auguro che nel tempo possiamo ancora di più cimentarla. Vi do l'appuntamento per un'altra edizione in un altro momento. Intanto auguri per i vostri 100 anni. Grazie. E speriamo che ce ne siano altri 100. Speriamo che ce ne siano altri 100. Grazie ai nostri ospiti di Unicredit. Linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria, poi rientreremo un'altra volta con Gianfilippo. Grazie, a tra poco. Pubblicità. Il modo migliore per rendere felice una donna è regalarle un gioiello, un valore eterno, adatto a sigillare unioni profonde e inossidabili. Da Mineo Gioielli, le più preziose idee regalo proposte con professionalità ed eleganza, perché un gioiello è testimone di momenti memorabili. Mineo Gioielli, la preziosa artigianalità e l'eleganza di collezioni esclusive che fondono il freddo dei gioielli con il calore di sentimenti irripetibili. Mineo Gioielli, via Flavio Gioia 3, telefono 091 962 313 a Bagheria. Una tradizione che si trasmette nel tempo. Peugeot ritorna a Cefalù con Aica. Aica, concessionaria Fiat, Lancia, Fiat Professional e Peugeot. La trovi in via Roma 91-93 a Cefalù. Vieni a visionare il nostro nuovo showroom Peugeot e scoprirne la nuovissima gamma, tra cui la bellissima 3008 o lo sportivissimo coupé RCZ. Potrai richiedere un preventivo gratuito. Inoltre, se possiedi una vettura da rottamare, tra le nostre numerose offerte potresti trovare quella giusta per te. Ti aspettiamo in via Roma 91-93 a Cefalù, telefono 0921 42 11 55 o visita il nostro sito www.aicasrl.it.

E allora vi ricordo che state ascoltando CRM Radio, la radio che si sente e si vede. Sì, lo potete vedere perché se andate, dove andate? Dove andate? Sì, ah, eccolo lì. Allora, se andate su Facebook, su Facebook ci siamo anche, ma siamo anche su internet, andate su On Air, CRM Radio, andate su On Air, insomma, siamo in diretta telefonica. Dice bene Raul, mi fa così, frena perché sta là, c'è scritto lì, sì, ho letto tutto, sono senza occhiali, non vedo nulla. A parte, no, a parte lo scherzo. Allora, ringraziamo ancora gli ospiti che abbiamo avuto, il dottor Augusto Cesare, che ritornerà con noi nelle prossime puntate per ragguagliarci sulla situazione economica italiana, sulla finanza italiana, perché essendo un addetto ai lavori chi meglio di lui può erudirci. Ma adesso parliamo di cose più, diciamo, non effimere, ma più semplici, più digeribili, ecco, perché l'economia, insomma, è un po' pesantuccia. Si è aggiunto un ospite a Jean-Philippe, non poteva essere che così. Allora, c'è la mia amica Jenny che viene a trovare tutte le puntate perché ama fare radio. Ecco, ha già salutato. Ciao! Sicuramente nel proseguo della nostra vita avremo l'opportunità e il piacere di averla come collega, perché gli sarà affibbiato a sua scelta un programma. Non si sa quando andrà in onda, ma sicuramente andrà in onda, e poi stabiliremo di concerto con la direzione il da farsi. Jean-Philippe, intanto Jenny, volevi tu porre una domanda a Jean-Philippe? Mewi. Allora, io direttamente. Sì, vai direttamente, non c'è problema. Dai, risponderò in maniera sincera. Diciamo, accennavamo durante la pubblicità, sì, sul fatto che Filippo desiderava fare l'attore, però mi è sembrato un po', diciamo, deluso da quello che è venuto dopo. Insomma, il Grande Fratello non gli ha aperto una porta, piuttosto gliel'ha chiusa in faccia. Allora, logicamente per fare gli attori bisogna studiare, bisogna prepararsi, non è che quelli che vanno al Grande Fratello non sono artisti in primis, quindi devono avere, hanno la presunzione di dire adesso io mi metterò a fare l'attore, sarò un grande attore. Gli esempi sono il Taricone, che comunque si è preparato, ha preso delle batoste durante... Scusate ragazzi, sì, devi parlare in maniera diretta, perché se ti sposti la voce, anche se il microfono è direzionale, però... Ma mi serve uno specchio così guardo... Guarda quel bel ragazzo lì così, insomma, come no, ma c'è il punto di riferimento, vai. Insomma, dicevo, prendi Taricone, che comunque lui ha fatto una bella gavetta e poi è riuscito... Sia Luca Argentero comunque ha fatto una bella gavetta e poi è uscito, è emerso come Pietro attore. Pietro ha studiato prima o dopo del Grande Fratello? Sicuramente dopo il Grande Fratello. Dopo sia Luca Argentero che Taricone. E ti posso dire che comunque bisogna prepararsi. Non è facile entrare nel mondo del cinema provenendo dalla televisione, soprattutto provenendo da un reality come Grande Fratello, quindi è molto molto molto difficile, ci sono molti tabù in confronto a questi personaggi, quindi chiaramente io avevo voglia di emergere immediatamente e le cose frettolose non possono mai avvenire. Quindi tu forse hai pensato, cioè sei andato al Grande Fratello pensando che potesse essere un lancio per te? Io sono andato al Grande Fratello solo ed esclusivamente, non mi vergogno a dirlo, per una questione economica, perché ho detto vediamo un po' di fare quattro piccioli, come si dice in siciliano. Poverino. Ne ho fatti due, vabbè, così. E quindi sono andato al Grande Fratello solo ed esclusivamente per quel motivo lì. Poi ho detto tutto quello che viene dopo, se lo posso sfruttare bene, se non lo sfrutto, pazienza, continuo la mia vita come era stata programmata. Ecco. Abbiamo scoperto che la nostra Jenny è anche una brava giornalista, vedi come ti scrupulia per dire. Sì, mi sta studiando, devo stare attento a non scoprirmi troppo. Volevo anche infatti dire una cosa, quello che ritengo sbagliatissimo della TV italiana è che la gente prima si propone e dopo vuole studiare. Cioè, questo non è giusto, non è professionale. La gente prima dietro deve sapere e poi deve arrivare a un certo livello e presentarsi. Hai fatto un'ottima riflessione, giustissima riflessione. Ma però mi consenti una cosa, per non parlo di te ovviamente. Scusa, però ascolta un attimo, non è che tutte le persone che vanno in televisione possono prima essere preparate. A volte si scoprono dei talenti, vedi per esempio Fiorello faceva l'animatore, no? E allora poi non è che si è improvvisato, diciamo che poi entrando nel circuito televisivo ha scoperto tutte le sue prerogative e le ha poste in essere. Certamente, come diceva Gianfilippo prima, è chiaro che se io nasco grezzo, per dire spoglio da qualsiasi scevro, da qualsiasi formazione di accademia d'arte drammatica o quant'altro, che mi prepari per entrare nel mondo del teatro o del cinema, non posso improvvisare, perché poi devi saper stare su un proscenio, devi saperti muovere, l'addizione è importante, non puoi andare a fare fare cinema e se ti chiedono di parlare in corretto italiano non puoi mettere in versione dialettale, a meno che non sia un film dialettale. Chiaro. Ecco, per cui devi avere questa formazione. Poi perdonami, volevo dire una cosa, poi sinceramente se avessi studiato recitazioni e fosse, avessi una certa capacità come attore, sicuramente non avrei fatto Grande Fratello, perché sicuramente tarpa un po' le ali, sicuramente te le blocca, ti blocca il volo, quindi, perché comunque ci sono dei pregiudizi su queste persone, ma ci sono pregiudizi, comunque è chiaro, ah tu sei Gianfilippo del Grande Fratello o tu sei Luca del Grande Fratello, comunque hai quel marchio che è molto difficile da levare, soprattutto in quell'ambito, ecco, nell'ambito dello spettacolo, della televisione, tutte le cose. E poi chiaramente ci sono i vari retroscena e vari appoggi che a cui bisogna sottostare, e poi dipende, ciascuno ha la sua dignità, io ho la mia dignità e ne vado fiero, non scendo da determinati compromessi, non sono d'accordo su determinate cose, quindi ho lasciato correre, è stata una parentesi della mia vita, ma sono convinto che se tu non avessi studiato e ti venissero a chiedere vuoi fare Grande Fratello, in quel subito d'impatto ci potresti pensare e potresti anche dire di sì. È difficile che la gente dica di no, e io non ci credo alle persone, perché comunque può essere un trampolino di lancio, e può essere un trampolino di lancio a livello tra virgolette economico, che adesso non è più così, perché i primi Grandi Fratelli sono quelli che, dove hanno guadagnato veramente cifre enormi. Adesso non si fa la fame veramente, ma anche con le ospitate post Grande Fratello, sì, ma adesso si fa veramente la fame, cioè quella è la verità. Ultima domanda, Gerny, perché poi devo andare in sponsorizzazione, abbiamo ancora 10 minuti buoni di programma e poi chiudiamo, prego. Ultima domanda. In realtà volevo dire, il fatto dei soldi mi sembra un'ottima scusante, perché non penso ci sia un altro motivo per andare al Grande Fratello. Beh, guarda che anche la fama ti galvanizza parecchio, quindi non è che ti piace essere riconosciuto, ti piace che quella ti chieda l'autografo. E che cosa ti rimane? Cioè, non sei un artista, non hai dato nulla alla gente, hai solo litigato con qualche persona, hai fatto cose peggio di litigare? Io non ho fatto niente. No, non parlo di te, parlo in generale, no, guarda. Vabbè, no quello generale. È vero, però comunque è quello che il pubblico vuole, te lo sei mai chiesto? Perché ad amici che sono dei artisti, perché comunque sanno cantare, sanno ballare, si sanno muovere, non fanno altro che litigare. Sì, perché hanno adesso cambiato il format ed è sbagliatissimo. Perché adesso è quello lì, il pubblico vuole vedere le litigate, perché comunque c'è l'effetto sorpresa, come andrà a finire? Come andrà a finire questa litigata, come andrà a finire questa storia d'amore, quindi non lo so, comunque vi fermo un secondo, sì, perché vorrei invitarvi a una riflessione. Spesso si è parlato di certi film, di certi filoni, di certa televisione, no? Facevi cenno anche tu prima, no? Dei Grandi Fratelli, in effetti quelli più eclatanti sono stati il primo e il secondo, poi via via la cosa è andata scemando, perché come tutte le cose c'è un inizio e poi c'è purtroppo una fine. La cosa invece che mi lascia un po' perplesso è la convinzione che molti, lascia stare il discorso del Grande Fratello, ma anche di altre trasmissioni, anche per quanto attiene per esempio le ballerine, no? Anche lì ci sono dei preconcetti, se tu sei ballerina di avanspettacolo e non vieni dall'Accademia dell'Accademia di Ballo, quindi non hai i fondamentali della danza classica, anche lì c'è questo guardarsi in cagnesco. Allora, secondo voi, ve lo chiedo a lei che ha fatto la ballerina, che fa la ballerina, a te che hai fatto, tra virgolette, ballerina, l'attore dentro no, il Grande Fratello, eccetera. La cosa che vi chiedo è questa. Vero è che il successo può dare la testa, ma per mantenere il successo ci vuole un bel po' di preparazione. Vi esorto a fare una riflessione e poi fate voi con le vostre parole. Secondo voi, in un palinsesto televisivo, ci può stare un format pseudo-leggero? Ma cosa bisogna mettere in testa a chi partecipa a questo format per evitare che poi vanno ad impattare o diventare delle meteore, no? Che cioè nascono, brillano e muoiono. Vado io. Allora, intanto penso che adesso tutti i format creano meteore, perché è una politica aziendale. Gli conviene avere delle meteore, gente che sparisce, gli hai dato quattro spicci e se ne vanno a casa. Purtroppo l'Italia, ma questo al di là dello spettacolo, in qualsiasi ambito la meritocrazia non esiste e non esisterà mai in Italia, perché qua si cerca sempre la spinta di qualcuno per raggiungere determinati obiettivi, e questo è il male dell'Italia e probabilmente il male della crisi italiana. Sono d'accordissimo. Quindi, cioè, io posso essere bravissimo, ma alla fine se non ho un aiuto, una spinta, non vado avanti. Tu prendi Belen, donna meravigliosa, bellissima, ma non ha mai fatto l'attrice, si è ritrovata lì, ha avuto sicuramente delle spinte ed è arrivata, poi sarà stata portata. Devi avere comunque qualcuno che crede in te e che ti dia una mano ad andare avanti, ecco. Mi volevi sì. correggere? No. Mi sta bene quello che dici, diamo la risposta sentiamo la risposta di Jamie. Allora, anch'io sono d'accordo sul fatto, cioè, io sono per la meritocrazia assolutamente, non sono dell'idea che chi non è capace deve togliere il lavoro agli altri, e mi arrabbio tantissimo quando vedo gente che esce, anzi mi ha stupito il fatto che lui ha detto la porta in faccia, cioè la porta chiusa per chi ha fatto il Grande Fratello, però ho visto molti che comunque ce l'hanno fatto ugualmente a inserirsi in campi che non sono di loro competenza. Poi è bene, cioè è bello se loro sanno dimostrare qualcosa. C'è stato anche chi ha saputo dimostrare, ma la maggior parte ruba solo lavoro a chi è più bravo di lui e magari non ha avuto quella fama. Ma questo attiene, giusto come diceva lui prima, dentro delle logiche di lavoro, chiamiamolo così, televisivamente, cinematograficamente parlando, di musica, quello che tu vuoi, lì non c'è soltanto la meritocrazia, perché ahimè ci sono anche lì le raccomandazioni, i sotterfugi, gli inganni, eccetera. Tutto quello, cioè, quindi va da sé. Ci fermiamo un secondo, io volevo ringraziare intanto dunque la qualità ed esperienza delle coppe IACC di Farinella, una macelleria in via Nazionale 60 Gangi, pensate che fa dei prodotti veramente meravigliosi, non posso elencarveli tutti ma nel tempo ve li elencherò tutti quanti. Abbiamo per esempio il salame felino, pensate, il salame cacciatorino, la salsiccia asciutta, lo speck e pancetta di produzione propria, ragazzi già mi sta venendo fame. Poi abbiamo il rollò di vitello, pollo e tacchino, e l'arista al pistacchio, arista tirolese, insomma guardate quanti piatti potete portare a casa vostra, quanti secondi piatti potete fare. Vi invito soltanto, se andate oggi alla CCC, che è la cooperativa di Farinella, in via Nazionale 60 a Gangi, 0921 64 50 44, vi consiglio di comprare un po' di salame felino, un po' di salsiccia asciutta, che è buonissima, fatta con l'uovo e la fine del mondo, e poi perché no, magari domani a pranzo comprate un po' di arista al pistacchio e sentite che gusto. Vi ricordo allora, via Nazionale 60 è una macelleria della cooperativa IACC di Farinella, qualità ed esperienza a Gangi. Vi do la email gli occhiali santifar79@live.it e buon appetito. Andiamo ancora con un'altra macelleria, questa volta più vicina a Finale di Pollina, dal produttore al consumatore, anche questa è una cooperativa, natura e gusto, la dice lunga, carni, formaggi, prodotti agricoli dal produttore al consumatore. Via Libertà 138, Finale di Pollina, al telefono 327-166-3054, la email è biovaldemone@pec.it. E anche qui in questo caso, ragazzi, se Gangi insomma ha dei prodotti straordinari, ha una vasta gamma di secondi piatti da portare nelle vostre tavole, ma anche natura e gusto non scherza, soprattutto con i prodotti agricoli, che è qualcosa di straordinario, ma anche le carni sono di produzione propria, come la cooperativa che vi dicevo prima di Gangi. Andiamo avanti con oggi per esempio, a me non va, sono in viaggio, mi fermo a Finale di Pollina alla rosticceria Trattoria Gastropoli in via Einaudi 12, 0921 42 61 21. Dunque, tagliatelle al sugo di cinghiale, oggi voglio mangiare questo, ti faccio venire ancora un po' di languorino, con i funghi porcini buoni, oppure i piatti con pollo arrosto, carne di cinghiale, il vitello è Le stigliole, quindi ricordate, rosticceria Trattoria Gastropoli, via Einaudi 12, a Finale di Pollina. Assaggiate le stigliole perché sono veramente una delizia. Mi fermo un attimo, ultime due battute e ultimi sponsor e poi ci salutiamo. Gianfilippo, a chiudere, tu hai cambiato radicalmente modo di lavorare, non lavori più nel mondo dello spettacolo, ti sei laureato in giurisprudenza, sei un dottore in giurisprudenza. Sì, perfetto. Sì. Sì, sì. Perfetto, hai fatto la specializzazione? Sì. Tu in cosa sei specializzato? Cioè dici a livello post laurea? No, io dopo essermi laureato cambiato proprio via in tutto, ho cambiato radicalmente. Raccordo lunare, via. Sì, via. No, ho fatto dei master all'Università di Ingegneria di Perugia e dove mi sono preso delle abilitazioni per seguire appunto la sicurezza nei luoghi di lavoro e mi occupo di questo a Roma con la mia ragazza. E poi c'ho abbiamo due studi legali, ecco, quindi faccio un po' l'uno e un po' l'altro. Comunque vivo bene, sono contento e ho le mie soddisfazioni. L'importante non è questo ti manca il mondo della televisione? No, non mi manca. A volte guarda, ti dico, vedo su YouTube alcuni video, un po' di tristezza, mi cala, ci mancherebbe altro. Però no, adesso sono felice così e vado avanti così. Un'ultima domanda, tanto successo ti è piovuto addosso, riconosciuto da tutti, arrivi nel tuo paese, tutta la gente che ti ferma, cioè quello che dicevi prima Jenny, il successo a volte è gratificante, ma chi non vuole gli applausi, chi non vuole il successo, è chiaro che ti gratifica moralmente, no? A parte il discorso economico. Ma ti chiedo come hai fatto a rimanere quel che eri, cioè quel bravo ragazzo di quella buona famiglia, senza che ti sei montato la testa e non hai fatto gli sfracelli che molti invece purtroppo si danno poi alle pazze gioie. No, guarda, non saprei darti una risposta, sinceramente. Sono ti faccio proprio in 30 secondi ti dico due cose. Esci dalla casa, tutti ti piovono addosso, sei contentissimo. Dopo un pochettino che la gente ti piova addosso, non ne puoi più. Dici: "Mamma mia, non vedo l'ora di levarmi dalle scatole questi che vogliono la foto". Dopo c'è il declino. Ecco, declino, e dici: "Mannaggia, perché questo non mi piove addosso? Perché non viene da me a chiedermi un autografo?" Cioè, capito? Questo. Quello lì è lo stress dopo quello che ti viene. Sono rimasto così perché sono così e non ho da tirarmela, perché non sono nessuno, sono una persona qualunque. Quindi te lo dico, sono venuto qua a raccogliere le olive. La differenza tra fame e notorietà. Chi ha notorietà, sempre non parlo di te. No, ma puoi parlare di me, perché è un'immagine che la vedo poco meritata, in generale. Se lui faceva l'attore magari, cioè, spaccava, però dico, alla fine da lui è rimasto solo quella notorietà, quindi la gente lo dimentica, lui e gli altri, perché non hanno lasciato qualcosa, cioè l'arte colpisce e entra dentro. Ho capito. Prima di Jenny, pensavo, oggi si è lasciata andare in cose molto molto profonde, insomma, altro che raccogliere le olive, voglio dire, è una cosa da dice lunga. Salutaci con un tuo augurio, visto questa grande sacca depressiva, anche voglio dire emotiva, a cui stiamo andando incontro, nonostante le cose che non vanno molto bene economicamente in questo momento in tutto il mondo, ma nella fattispecie nella nostra Sicilia. Qual è l'augurio che tu fai ai tuoi coetanei che vogliono affacciarsi nel mondo dello spettacolo? Qualche consiglietto così? Guarda, qualche consiglio servirebbe anche a me. Comunque, da quello che ho potuto imparare, sicuramente è avere una stabilità, non ascoltare nessuno, seguire la propria strada e veramente non ascoltare nessuno, è abbattere tutti i muri. Questa dice lunga la romana, è De Goccio, eh? È De Goccio. Prego. Io saluto tutti, ringrazio Radio. Siamo noi che salutiamo tutti, ringraziamo. Ringrazio Radio CRM per i sostegni che mi diede nel 2008. Noi sosteniamo sempre. Ringrazio te di avermi invitato e per il pubblico madonita. Tanta fortuna e speriamo di uscire da sto baratro economico. Ce l'auguriamo tutti. Ragazzi, bisogna essere uniti, non bisogna credere troppo ai politici, bisognerebbe fare un movimento proprio sociale italiano, noi, perché per evitare ci stanno prendendo un po' troppo in giro, ecco, poi io non voglio intervenire sulle banche. No, io ho detto golpe bianco, quindi per... Quindi, ci combatto sempre, ecco. Allora. Grazie ancora a Gianfilippo per essere stato con noi, ti auguro un buon rientro a Castelbuono e poi un buon volo. No, anzi, sei sceso in macchina tu. Sì, sono sceso in macchina. Allora, devo portare l'olio. Devi portare l'olio a Roma. Ci vedremo sicuramente a Roma. Grazie Gianfilippo per essere stato con noi, per la tua disponibilità. Un salutino a degli amici che stanno, a un amico che sta a Cefalù, Maurizio Brocato. Ti saluto tanto, devo passare a trovarti e me lo scordo sempre. Quello un guaio. Se mi senti, ti voglio tanto bene. Se batti un colpo se mi senti. Okay, Jenny, saluta anche tu. Grazie a tutti, ciao. Allora, grazie anche a Jenny. E prima di salutarci io dovevo darvi dei consigli. Il primo: se volete passare una serata diversa a Castelbuono, andate a Disco Pub al Texano, perché trovate intanto una sala molto bella, arredata con gusto, ma potete assaggiare tartine, cocktail, tropical, tutto quello che volete. C'è un bar assortitissimo, poi musica dal vivo, musica live, quindi anche lì un rilassamento assoluto. Poi per le partite di Champions, insomma, non ci sono problemi. c'è uno schermo super gigante, ma anche per ballare la serata è quella giusta. Disco Pub al Texano a Castelbuono, 0921 671 199. Andiamo avanti invece, se volete passare un weekend di tutto riguardo dovete andare alla Perla di Engiu a Gangi. Parco hotel, sala ricevimenti, ma anche sala per matrimoni, cresime, battesimi, eccetera. E in un polmone verde, quindi massimo silenzio, massimo relax. D'estate poi c'è una piscina dove potete fare anche i vostri banchetti fuori, ma d'inverno è una sala veramente straordinaria con 20 posti letto. Ricordate quindi Perla di Engiu, ed è veramente una chicca incassonata in questa città meravigliosa che è Gangi, nell'entroterra madonita, per cui voglio dire sapori, gusti straordinari, ma soprattutto un relax totale. Perla di Engiu a Gangi. Mi pare che abbiamo finito, non abbiamo altro da dirci. Io ringrazio come sempre gli ospiti che sono intervenuti, nella persona del dottor Augusto Cesare, dirigente della Unicredit, e il direttore di sede di Cefalù, il dottor Maurizio Sorce. Ringrazio anche Jenny Aiello per essere stata con noi. Ogni giovedì l'avremo qui fin quando non prenderà il timone in mano e guiderà lei un suo programma. Un ringrazio a Gianfilippo Failla per averci raccontato quello che è stato il Grande Fratello per lui, quello che oggi è. Gianfilippo a distanza dalle telecamere e fuori dall'ambito televisivo si occupa di tutte altre cose, e un grazie naturalmente alla parte tecnica, al fonico, a Simone Brancato, che tutti i giovedì si mette lì, risponde al telefono, manda i pulsanti, manda pubblicità, insomma fa di tutto e di più. Ma un grazie soprattutto a voi e agli sponsor, perché ci seguite sempre con tanto affetto, sperando di avervi dato uno spaccato di qualche ora di relax all'insegna, anche perché no, di argomenti un pochino anche pesantucci, ma cerchiamo sempre di dare informazione. Questo è il volto di questo programma di Carta e Penna, che vi ricordo va sempre in onda ogni giovedì da mezzogiorno alle 13.15 circa, e la differita domenica dalle 9.30 in poi. Dopo di me dunque un attimino, perché non senza gli occhiali non riesco a vedere. Abbiamo cambiato allora, sì, allora dopo di noi, pensate un po', c'è Sparrottando, e quindi diamo il benvenuto a loro, noi ci diamo le nostre poltroncine, vi auguro buon ascolto con questo programma e l'appuntamento come sempre giovedì prossimo da parte di Filippo Glorioso. Ancora grazie, un bacione a tutti, ciao, buon weekend. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso.